dolce malinconia. Solo tu sai come sorprendermi. Seduto in riva al mare, guardo l'orizzonte e mi perdo. Il vento soffia su di me, sulla mia faccia seriosa. Mi sposta i capelli e sussurra all'orecchio cose per me incomprensibili. Non capisco e rimango paralizzato, un po' amareggiato. C'è stare fermo a pensare che con una parola tutto può cambiare, ma non è così facile. E mi tocca destarmi, non tutti sono buoni, misericordiosi, sinceri e leali. In fondo lo immaginavo. Non capisco e rimango.